Quanti hanno aspettativa che il Signore parlerà questa sera nei nostri cuori? Amen. Io credo fermamente che la parola di Dio è, come è scritto, una spada a doppio taglio. Ed è potente e efficace, è un'arma che Dio ha prestabilito per il meglio della tua vita e della mia vita. E io sono convinto che questa sera l'arma di Dio, la sua parola, avrà efficacia nella nostra vita di cambiare la nostra storia. E io credo che se siamo qui è perché abbiamo fiducia nel fatto che il nostro Gesù è vivo e parla ancora oggi, parla alle nostre vite e ha qualcosa di sempre fresco, sempre nuovo da affidarci, da darci, e vuole trasformare le nostre vite. Amen. Quindi io voglio fare appello proprio a tutta la fede che è in te, nel intercedere con me prima di questo messaggio, affinché Lui stesso possa preparare i nostri cuori, parlare, ma ancora di più. Noi non siamo qui per avere le orecchie solleticate, no? Non vogliamo solo che il nostro timpano vibri di belle parole. Noi vogliamo che il nostro cuore, la parte più intima di noi, possa completamente essere rinnovata e trasformata. E questo è un miracolo che solo Dio può fare, non è qualcosa che io posso fare, ma lo Spirito Santo può fare e vuole fare questa sera. Amen. Quindi io faccio appello di nuovo a tutta la fede che è in te, nel credere che questo è un tempo nel quale lo Spirito Santo vuole ministrare alle nostre vite. Glielo vogliamo far fare. Amen. Vogliamo far fare questo a Dio questa sera. Vogliamo arrenderci alla sua presenza e dire: Signore, cambia le nostre vite. Per piacere, Signore, cambiale radicalmente. Lo vogliamo fare? Voglio chiedere a te di alzare le tue mani dove ti trovi. Io credo che in questo momento il Signore ci sta guardando, ci sta osservando, ha amore, profondo amore nei nostri confronti e vuole sentire la nostra voce, la nostra fame, il nostro desiderio di Lui. E Padre, noi siamo qui desiderosi di te. Non abbiamo bisogno di un altro incontro di chiesa, non abbiamo bisogno di un altro messaggio, di un altro sermone. Abbiamo bisogno del tuo tocco, Spirito Santo. Abbiamo bisogno che tu soffi su di noi e che tu prenda possesso delle nostre vite, che tu ci trasformi. E io, Padre, voglio pregare affinché ogni singola persona che in questo momento mi sta ascoltando possa essere trasformata e cambiata e liberata, Gesù. Io prego per liberazione nel nome potente tuo santo, da ogni dominio, da ogni potenza, da ogni intervento del maligno che vuole distruggere e rovinare le nostre vite. Le nostre vite appartengono a te, abbiamo fame di te, Gesù, ti desideriamo questa sera, parla ai nostri cuori. Questo è l'urlo della tua chiesa qui a Modugno, questo è l'urlo della chiesa pieno Vangelo nei tuoi confronti, Padre. Scuoti i nostri cuori, scuoti le nostre menti, cambiaci da dentro a fuori, trasforma per sempre la nostra esistenza, trasforma le nostre famiglie, i nostri matrimoni. Noi preghiamo questo nel nome di Cristo Gesù, che è potente da fare tutto questo. Amen. Amen. Amen. Dio è buono e Lui ti ama e vuole trasformare la tua vita. Amen. Non credere alle bugie del maligno, che questa sarà una serata come altre. Non credere alla bugia del maligno che ti vuole far credere che non c'è di più, perché c'è di più. Amen? C'è di più per te. Puoi dire alla persona che ti sta a fianco: c'è di più per la tua vita. C'è di più. Possiamo accomodarci e io sono molto entusiasta del messaggio che condividerò con voi questa sera. Sono entusiasta per una semplice ragione, perché quello che andremo a leggere stasera è Gesù al 100%, Gesù nella sua massima manifestazione di gloria in parole radicali e innovative, straordinarie. Quello che Gesù dice nei versi che andremo a leggere è qualcosa che è paradossale, così lontano dalla logica umana, ed è proprio per questo che mi piace piace davvero tanto, davvero tanti, posso dire un casino, mi piace un casino, cioè proprio tantissimo, perché qui è Gesù e tu leggi Gesù e dici questo può solo Gesù, cioè Gesù può dire una cosa del genere, nessuno, infatti nessuno dice e ha mai detto e ha mai avuto una visione di vita, una prospettiva di vita come leggeremo nei versi che andremo a leggere. Nessun uomo su questa terra è mai giunto a un insegnamento di questo tipo, nessun saggio, nessuna persona che ha meditato, nessun filosofo, nessuna persona spirituale, nessun guru, nessuno è arrivato a poter dire parole di una straordinarietà tale che sono addirittura distanti da noi e non comprendiamo bene. Infatti stasera avremo difficoltà, ve lo anticipo già. Le parole che andremo a leggere ci metteranno in difficoltà per una semplice ragione, perché non sono per certi versi alla nostra portata. Per certi versi sono troppo distanti dalla nostra vita e dal nostro modo di pensare. Da dove andremo a leggere? Andremo a leggere da quel famoso discorso che Gesù ha fatto, che è il Sermone sul Monte. Lo conosciamo? È una lunga predica con tante tematiche che Gesù tratta e che nei Vangeli troviamo ampiamente descritta in maniera dettagliata per tanti capitoli. Cioè ci sono tanti capitoli della Bibbia che sono dedicati al sermone sul monte che Gesù fa. E questo sermone, questa meravigliosa predica, questo messaggio che Gesù fa alle folle, tante persone lo stavano ascoltando, migliaia di persone ascoltavano questo sermone. La conclusione di questo messaggio è la seguente, credo che la conosciamo tutti. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io dico? E poi va avanti raccontando una storiella che forse noi tutti conosciamo molto bene. Gesù dice, da una parte c'è un uomo stolto, una persona che costruisce la sua casa sulla sabbia. Su quella casa si abbattono la fiumana, le tempeste e quella casa crolla. E Gesù aggiunge dicendo, quell'uomo è la persona che, ascoltate le mie parole, non le mette in pratica. Poi dice, c'è un altro uomo, un uomo saggio, un uomo avveduto. Questo costruisce la sua casa solo dopo aver prima scavato e fondato le fondamenta di questa casa sulla roccia. E Gesù aggiunge, l'uomo saggio è colui che ascolta le mie parole e le mette in pratica, esattamente. Ora, vedete, questa è la differenza. E noi siamo divisi, anche come popolo cristiano. Forse tu che in questo momento mi stai ascoltando, puoi riconoscere che un po' sei stolto, un po' sei stupido. Vogliamo usare proprio termini più contemporanei vicini a noi. Sinumers shame, sei scemo, ok? Sei scemo, ok? Puoi dire alla persona che ti sta a fianco... Con gentilezza e amore. Puoi dire, tu sei scemo. Antonio, Andrea, Francesco, Mary, Noemi, Antonio, Luciana, Sara, Vito, Gianluca, in una qualche misura tutti noi possiamo riconoscere di essere... Ah, lo so che non vedevi l'ora di venire in chiesa ed essere accolto con queste parole di incoraggiamento che ti svelano la verità su te stesso. Ed è bello perché siamo in compagnia di tante persone sceme, sì, stupide. Siamo stupidi. Tutti noi, se andiamo a leggere le parole di Cristo, ci rendiamo conto che in una qualche misura e per qualche cosa siamo degli uomini stolti e costruiamo la nostra casa sul niente, sulla sabbia delle nostre convinzioni che non regge niente. E quando poi viene la tempesta nella nostra vita, le circostanze difficili, e badate bene, Gesù sta dicendo le circostanze difficili, la tempesta, la fiumana si abbatte su tutti gli uomini, credenti e non credenti, saggi e stupidi. Se tu vivi nell'illusione che perché sei cristiano, determinate cose non devono accadere nella tua vita, sei un illuso. E purtroppo devo darti una pessima notizia. La tempesta si abbatterà contro la tua vita. È solo una questione di tempo. Forse oggi sei in una stagione calma, di riposo, bella, ma la stagione brutta verrà, tornerà, ci sarà. Però Gesù dà una garanzia. La tua casa può rimanere salda, ferma, stabile, incrollabile davanti a quelle che sono le tempeste più furiose. Come? Ascolta quello che Gesù ti dice e fai quello che Gesù ti dice. Non essere solo un ascoltatore della parola, ma metti in pratica la parola. Questo ti libera dall'essere stupido e ti porta ad essere un uomo saggio. Ora vuoi dire alla persona che ti sta a fianco, perché il fatto che noi siamo qui questa sera fa di noi delle persone sagge, delle persone avvedute, delle persone che sanno il fatto loro perché hanno capito che non c'è via migliore e vita migliore se non quella vissuta con Cristo Gesù. Quindi alla persona che hai detto scemo, chiedi perdono in questo momento e di tu sei estremamente saggio. Ci siamo rifatti, abbiamo pareggiato i conti, pure tu Mary, siamo saggi, siamo nel posto giusto per la ragione giusta, Dio ci ama e posso dirti una cosa, la tua casa è destinata a reggere. Amen. Davanti a qualsiasi circostanza, anche le più difficili, tu ce la farai. Tu ce la farai perché Cristo è con te, la tua roccia, e tu stai scegliendo di fondare le fondamenta della tua casa sulla roccia, sulla cosa più sicura. Tu ce la farai. Amen. Ora, che cosa insegna Gesù? La cosa bellissima di questo sermone è che la tematica che più ama prendere in tutto questo messaggio Gesù è una tematica che ha a che fare con le relazioni. Come ci rapportiamo al nostro prossimo, come ci rapportiamo a quella persona, a quell'altra persona, a nostra moglie, a nostro marito. A dire il vero, Gesù non tanto cita moglie e marito, non tanto cita neanche relazioni di amicizia e accordo. Gesù cita tutte quelle situazioni e tutte quelle relazioni conflittuali. Perché in fondo Gesù ci conosce molto bene, sa. Non avete bisogno di sapere e avere nozioni e istruzioni su quelle relazioni che funzionano. Avete bisogno però istruzioni e avete bisogno insegnamento su quelle relazioni conflittuali della vostra vita. E quanti in mezzo a noi questa sera possono dire che le relazioni conflittuali della nostra vita sono un bagaglio terribile? Ed è così, ed è per questo che amo insegnare sulle relazioni, perché una relazione nella tua vita può arricchirti o può impoverirti, può tirare fuori il meglio di te oppure può tirare fuori il peggio di te. Le relazioni sono importantissime, fondamentali, per questo non solo Gesù ma tutta la Bibbia parla di relazioni. E la Bibbia fondamentalmente va in due direzioni diverse quando parla di relazioni. La prima è scegli le giuste relazioni. E di questo abbiamo parlato anche la scorsa settimana, se non hai ascoltato il messaggio puoi andarlo a riascoltare. Scegli le relazioni buone nella tua vita. Scegli persone che amano Gesù. Ragazzi, ragazze, mettetevi insieme a ragazzi o a ragazze che amano profondamente Gesù. Non è solo saggio, è anche comandato dalla parola di Dio. E questo ti darà una garanzia di un rapporto che può avere un qualcosa che funziona, perché è Gesù che funziona nelle nostre relazioni. Io questa sera voglio parlare e prendere con voi dei versi che hanno a che fare con il massimo della conflittualità che si può avere con le persone. Infatti Gesù sta parlando di nemici, in questi cinque versi che andremo a leggere parla di nemici. Però prima di farlo vorrei aprire una parentesi importante, perché se è vero come è vero che la Bibbia ci istruisce in queste due direzioni, cioè la prima, scegli accuratamente le tue relazioni, la seconda, vivi tutte le tue relazioni secondo le istruzioni che Gesù ha da darti, se queste due istruzioni sono vere, allora il contesto chiesa è il posto migliore per poter applicare queste cose. Tu sei nel posto giusto, con le persone giuste, e la chiesa, io vorrei ricordarlo questa sera, la chiesa non è questo incontro, non è quello che incomincia alle 7 e finisce alle 8:30, se tutto va bene, no? Perché poi qualche volta andiamo oltre. Però la chiesa è relazioni, la chiesa è fratellanza. La Chiesa è connessioni, alleanze, collaborazioni, patti fra credenti, dove noi mettiamo intenzionalmente Cristo al centro. È per questo che non possiamo, e sarò chiaro con voi, Chiesa, non possiamo limitarci a vivere la Chiesa la domenica. Alcuni di noi, come era solito fare anche nei tempi antichi, perché lo leggiamo anche nella Bibbia, alcuni di noi sono soliti anche non venire regolarmente in chiesa, l'abbiamo letto la scorsa settimana. Questo è un impegno che tu prendi, bisogna partire dalla domenica. La domenica è importante per vivere la chiesa, ma non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno di intessere rapporti, relazioni. Noi dobbiamo stare l'uno a fianco all'altro, noi abbiamo l'esigenza, la necessità di edificarci reciprocamente, incoraggiarci reciprocamente, di pregare gli uni per gli altri, fare tutto quello che abbiamo visto la scorsa settimana. Alelon, questo è quello che descrive meglio la Chiesa. Per farlo noi abbiamo i gruppi che si incontrano durante la settimana. E io ti chiedo, con tutto il mio cuore, se non fai ancora parte di un gruppo, comincia a farne parte. Comincia a prendere l'impegno di inserirti in un gruppo affinché tu possa intessere relazioni. Si dice intessere o intessire, in entrambe le maniere. Quindi, tutte e due le cose, fatelo. Vivete la possibilità di intrecciarvi e legarvi ad altri fratelli, perché questo dà stabilità a voi. Io stasera voglio invitare a dare testimonianza sui gruppi a una coppia speciale. È una coppia di Mottola e io vorrei che noi la incoraggiassimo a venire qui sul palco col più grande e forte applauso che abbiamo mai fatto, Giuseppe e Teresa. Allora, con Giuseppe e Teresa abbiamo parlato, ci siamo detti a chi do parole. Giuseppe ha detto comincio io, poi prosegue Teresa. Non so dove andrà questa cosa, però vogliamo sentire da parte loro, perché vivono l'importanza dei gruppi e qual è l'esperienza anche, o quello che volete dire sui gruppi, insomma, sentitevi liberi. Buonasera. Beh, noi... quello che viviamo il martedì a Mottola è una grande cosa. Questa grande cosa è nata da una piccola cosa. 4 anni fa 4 persone si riunivano in una casa, c'erano 2 macchine da Modugno che venivano. Beh, in quel piccolo gruppo adesso è nata una grande cosa che ogni martedì si riunisce. E questa è la prima testimonianza che io voglio dare. Quindi tutto nasce da una piccola cosa. Poi... noi abbiamo i gruppi in casa e io voglio incoraggiare, quello che tu parlavi, pastore, è vero. Noi quello che facciamo nei gruppi in casa è proprio andare ad applicare, ad amare, ad impegnarci ad amare, a perdonare, mettendo sempre al centro Gesù. Praticamente portiamo il messaggio, lo rendiamo pratico. Ed è molto bello questo, perché poi Dio fa la sua parte, Dio benedice. E io non pensavo di poter amare persone che non conoscevo, persone che non mi erano neanche tanto simpatiche. Però Dio lo fa e viviamo il messaggio, lo andiamo a renderlo pratico. E poi è bello pensare che tu durante la settimana c'è qualcuno che prega per te, c'è qualcuno in cui tu ti sei aperto, hai detto dove tu cadi oppure le tue difficoltà che vivi, ed è bello, ecco, essere equipaggiati da questa famiglia e non essere soli. Tu non ti senti solo in settimana. E quindi io prego che ognuno di noi metta in moto quella fede. La domenica non basta. Fare un gruppo, ti senti famiglia, ed è molto importante farlo. Fatelo. Buonasera. Per me è comunque un onore vivere il gruppo. Sì, come ha detto Giuseppe, siamo partiti da 4 persone che si riunivano a casa nostra e non sapevamo cosa Dio ci stesse chiamando a fare. Una sola cosa abbiamo fatto, abbiamo scelto di vivere Cristo. Abbiamo scelto Cristo e dicendo quel sì eravamo e siamo degli stolti, però poi è Lui che ci rende capaci e ci dà le abilità per poterlo fare. Quindi è un onore veramente vivere la Chiesa, vivere la Chiesa a casa ed essere famiglia e fare famiglia. Grazie ragazzi. Per me è emozionante sentire questo, perché ricordo i primi incontri in casa e quanto un piccolo incontro può significare un'esplosione di testimonianza per un'intera città. Per me è straordinario. Quindi non sottovalutare quello che può scaturire dal piccolo incontro in casa che tu farai. Avrà un'influenza nel condominio, avrà un'influenza nel quartiere, avrà un'influenza nella città, ed è questo che noi desideriamo con i piccoli gruppi, perché questo è quello che Dio ci chiama ad essere: Chiesa ovunque, non solo qui. Amen. Ora vogliamo leggere le parole di Gesù, questa bomba, questo mix di parole incredibili. Vogliamo alzarci in piedi e voglio che noi tutti possiamo, guardando lo schermo, prestare attenzione e dare peso ad ogni singola parola che Gesù dice. Guardate qua. Ma a voi che ascoltate. E già qua ci potremmo fermare e già qui potremmo fare una riflessione. Gesù sta dicendo: c'è qualcuno che mi sta ascoltando, c'è qualcun altro che non mi sta ascoltando. Ed è qui di nuovo la differenza tra chi ascolta e chi non ascolta, tra chi ascolta e non mette in pratica e chi ascolta e mette in pratica. Ma a voi, a noi sta parlando Gesù. Noi stiamo ascoltando, noi bramiamo le sue parole, noi bramiamo le sue istruzioni. Amen, Chiesa. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede. E a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Incredibile, vero? Paradossale. Possiamo accomodarci. Questo è quello che Gesù insegna, e questi cinque versi, questo condensato di parole, sono la chiave in cui è nascosto tutto il segreto per un matrimonio di successo, per amicizie di successo, per relazioni che funzionano, per la fratellanza di chiesa e collaborazioni che portano avanti il regno di Dio, che funziona upside down, che funziona sotto sopra, che funziona con regole che non sono quelle alle quali noi siamo abituati. Gesù con queste parole ci sconvolge, ci gira, ci rivolta come un calzino. E quello che vuole portare ciascuno di noi a riflettere è che la logica di Dio per la vita che noi viviamo è diversa dalla logica che noi abbiamo per la vita che viviamo. E sicuramente l'unico che ha ragione è Dio, perché è Lui che ci ha creati ed è Lui che ha creato la vita. Quindi non dimentichiamo come finisce tutto questo sermone, tutto questo insegnamento. La fine di questo sermone è, vi ho detto queste cose perché in un qualche modo voglio che voi vi ritrovate a non essere scemi, ma saggi. A non avere una casa che crolla, ma avere una casa che è salda. E sapete una cosa? Come pastore vedo tante vite di tante persone, tanti fratelli, le cui case crollano. Le vite si demoliscono in un batter d'occhio, in una straordinaria velocità. E quando poi considero queste vite, mi rendo conto che forse queste persone avevano ben chiaro che cosa Gesù insegna, ma non avevano vissuto e non vivono pienamente l'insegnamento di Dio. Ora, questo non ci deve far cadere in giudizio l'uno nei confronti degli altri, anche su questo Gesù insegna, ma ci deve portare a incoraggiarci reciprocamente, a correggerci reciprocamente, a esortare ciascuno di noi reciprocamente a camminare nelle vie di Dio, perché chi ha da guadagnarci siamo noi per primi, perché avremo delle case ben solide e salde davanti a ogni fiumana, ogni tempesta della vita. Che cosa sta insegnando Gesù? Queste sono parole che noi conosciamo. Se uno ti percuote su una guancia, tu porgigli anche l'altra. E quello che Gesù sta insegnando sicuramente non ha a che fare con qualcosa di esteriore. Ok? Io vorrei che noi comprendessimo questo. Gesù non sta insegnando che noi davanti a violenza fisica non dobbiamo e non possiamo difenderci. Non sta insegnando che noi dobbiamo subire passivamente. Anche Gesù si è dileguato nel momento in cui lo stavano per lapidare. Però quello che Gesù sta insegnando ha a che fare con qualcosa di molto più profondo. Infatti, se andate avanti a leggere nei versi successivi, poi Gesù parla del cuore. Perché a Gesù interessa il nostro cuore. Qual è la condizione del nostro cuore? Come noi reagiamo a quelle che sono le ferite che ci vengono inflitte. È qui che Gesù vuole arrivare. Perché tu puoi porgere la tua guancia a una persona che ti percuote e che ti fa male, ma dentro lo stai odiando. E dentro stai mostrando l'altra faccia, l'altra parte della tua faccia, quale sfida piuttosto che quale reale arresa. Quindi Gesù sta parlando del cuore, e queste due immagini, l'essere percossi su una guancia, l'essere strappati di dosso il mantello, sono delle vive immagini che ci parlano di reazione. Non c'è niente che ti faccia reagire di più di essere colpito su una guancia, non c'è niente che ti fa reagire di più di essere derubato di qualcosa. E Gesù qui sta insegnando e sta dicendo che le relazioni nella tua vita sono strettamente dipendenti dalle tue reazioni. La relazione dipende dalla tua reazione. È qui che Gesù sta mettendo il dito sulla nostra piaga e sta dicendo: è qui che io vi sfido a vivere qualcosa di nuovo e di diverso. Posso chiederti questa sera: cosa succede in te nel momento in cui subisci un torto? Cosa vivi interiormente quando ti viene arrecato un danno, quando qualcuno ti fa male in una qualsiasi maniera? Qual è la tua reazione? Cosa vivi? Ed è qui che Gesù vuole riparare un danno e vuole portare guarigione nell'anima nostra. Tu forse oggi ti ritrovi qui a vivere ancora le reazioni di danni e ferite subite decine di anni fa. Forse il tuo carattere è stato modificato, manipolato e distorto a causa della tua incapacità di reagire nella maniera giusta, ma hai reagito istintivamente e ancora oggi subisci di quella reazione, carnalmente ti muovi ancora in quel meccanismo. Quello che Gesù vuole fare è rompere il meccanismo, spezzare questo legame, fermare la macchina del male, e vuole permetterti di essere libero. Una persona che sa come reagire a torti e dolori che subisce è una persona che è veramente libera. chi è il tuo nemico? Perché tu ti puoi chiedere, no, questa sera, ma io non ho nemici. Nella mia vita sono tutti amici. Però il nemico non è quella persona improbabile che col passamontagna irromperà dentro casa tua con mazze e sbranghe. Questo non è il tuo nemico, non ci sarà questo nemico nella tua vita. Probabilmente il tuo nemico è anche proprio quella persona che ti è più vicina. Il nemico è qualsiasi persona che ti reca un dolore interiore, che ti fa male in una qualche maniera, anche quando non vuole. Il tuo nemico può essere la tua vicina di casa del piano superiore che alle 3 di notte decide di mettere i tacchi e camminare per lungo tutto il perimetro di casa, no? Il tuo nemico può essere quella persona che ti taglia la strada, si imbuca nel parcheggio che tu avevi individuato e per il quale avevi già messo la freccia. Il tuo nemico può essere qualsiasi persona. E Gesù sta dicendo, reagisci bene perché la tua reazione determinerà le tue relazioni. Cosa farai? Cosa fai quando qualcuno ti fa male? Quando ti punge e ti reca dolore? Come reagisci? Ora lo sappiamo, io ho potuto scrivere di mio quelle che sono le mie reazioni. E sicuramente c'è un rancore interiore, a volte nella maggior parte dei casi non esteriore. Almeno questo riesco a fare, tengo tutto dentro, ma quel bollore posso tenerlo lì a covare per giorni, addirittura per mesi e anche molto di più. E Gesù a me ha detto, questo è sbagliato, smettila di covare reazioni, lascia andare il mantello, dai anche la tunica, porgi l'altra guancia, lascia andare libero l'altro e sii libero anche tu stesso. Questo è quello che Gesù ci sta istruendo, è quello che Lui vuole che noi viviamo. La vendetta non è la strada. Il ricambiare male per male, torto per torto, dolore per dolore, ferita per ferita, parola negativa per parola negativa, ti porta in una spirale di morte. E Gesù vuole liberarti da ogni spirale di morte. Ed è per questo che Lui insegna con queste parole. Lui vuole rompere il meccanismo di morte nella tua vita. Lui vuole farti andare via libero, pieno di vita, libero di poter amare sempre, chiunque e comunque ed essere una persona che è guarita interiormente e che non deve indossare maschere, ma è libera di apprezzare l'altro, amare l'altro. Quando tua moglie, quando tuo marito ti fa del male, come reagisci? Come ricambi? Sapete, c'è un verso che mette in risalto quanto questo sia importante, è Romani 12, al versetto 21, che dice non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Rispondi al male con il bene. Questo che Gesù intende dire quando parla di lasciare il mantello e lasciare anche la tunica, quando parla di porgere l'altra guancia, vinci. Gesù ci chiama a vincere. Fratelli, ci hanno insegnato che l'uomo forte è quello che reagisce, che l'uomo forte è quello che sbatte il pugno o lo dà il pugno, ricambia col pugno. C'è un uomo ancora più forte, è quello che sa perdonare, è quello che sa guarire della ferita appena subita e non reagire istintivamente, bestialmente, lasciandosi andare in qualcosa che è mortale per noi e per il territorio attorno a noi. Gesù vuole che tu possa vivere guarigione interiore e che tu possa avere relazioni sane tutto attorno a te. Che il tuo terreno attorno non è un terreno bruciato, che devi scansare quella persona, devi allontanarti da quella persona, devi evitare quella persona, con quella persona hai quel trauma, con quella persona ti ricorda quel dolore, ma che tu puoi abbracciare tutti, puoi amare tutti, anche quelli che più ti fanno del male. Io vorrei che noi comprendessimo questa sera che quello che Gesù sta insegnando non è teoria, ma è pratica. Gesù pieno di dolori, con la schiena letteralmente aperta, con le mani inchiodate sulla croce, i piedi inchiodati su quel legno, guardando alle persone che l'hanno schernito, hanno sputato su di lui, lo hanno bastonato, lo hanno frustato, lo hanno appeso su quella croce, guardandoli Gesù pregò per loro e disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Sei capace tu di fare questo con la persona che ha abusato su di te, che ti ha manipolato, che ti ha arrecato grossi dolori? Se tu riesci a fare questo, tu sarai vincente. Questo è quello che Gesù ci invita a fare, ad essere degli uomini vincenti, degli uomini veramente coraggiosi, perché ci vuole molto più coraggio a perdonare che non a ricambiare. Nelle relazioni conflittuali, chi è disposto a perdere è quello che vince veramente. E Dio ti chiama vittoria questa sera. Vittoria nel tuo matrimonio, vittoria nelle relazioni con i tuoi parenti, vittoria nel gruppo familiare di cui fai parte. E Gesù insegna anche l'importanza dell'utilizzo della parola. A chi ti maledice, dice, tu benedici. Ma non benedire con una benedizione che di fondo è una maledizione. Benedici realmente, concretamente. Prega per coloro che ti oltraggiano, per coloro che ti trattano male. Al lavoro, il tuo datore di lavoro, il tuo collega di lavoro. Chiunque provoca un dolore dentro di te. Sapete, c'è questa storia affascinante, incredibile. A metà del 1800 c'è stato un dottore ungherese dal nome Ignaz Semmelweis, e lui scoprì qualcosa di straordinario. Scoprì la ragione per la quale c'era un altissimo tasso di mortalità fra le donne che venivano ricoverate nel suo reparto di ginecologia. Scoprì la ragione per la quale queste percentuali erano così alte, queste donne venivano che erano sane e uscivano molto spesso in una tomba morte, e comprese che c'era una connessione fra i medici che andavano nella sala dove facevano autopsie, e questi stessi medici non lavavano le mani e poi si recavano a curare le pazienti. E così il medico ebbe un'intuizione che per noi è scontatissima, per l'igiene personale, per gli ospedali, assolutamente. Ricordiamoci che all'epoca non c'erano guanti, era essenziale che loro si lavassero le mani. E sapete, quando questo medico ha scoperto questa cosa e l'ha detta in ospedale, ha detto: sapete una cosa? Il problema della mortalità di queste pazienti non sono loro, non è la loro malattia, ma siamo noi medici, perché abbiamo le mani sporche. Al posto di accogliere con gioia questa scoperta, al posto di accogliere con entusiasmo il fatto che meno donne sarebbero morte, hanno cacciato via questo medico. L'hanno cacciato dall'ospedale, l'hanno cacciato dalla città, addirittura, pensate un po', è storia vera, potete andarla a leggere. Questo medico è stato imprigionato in un manicomio perché era ritenuto un pazzo, in quanto si era scagliato contro la classe dei medici dicendo: il problema siete voi e le vostre mani sporche. Vedete, il problema che c'era in quell'ospedale è che i medici erano portatori di morte, perché si erano macchiati le loro mani e portavano con queste mani cura a delle pazienti sane che però poi morivano. E quando noi non facciamo nostre queste parole, non siamo altro che medici che portano morte, cristiani che al posto di dare sale e sapore al mondo che ci circonda e portare luce, noi stessi siamo in questa spirale di morte e siamo noi stessi parte di quell'ingranaggio che porta tante persone a non scoprire il vero amore. Quando tu porgerai la tua guancia, tu predicherai l'Evangelo. Quando tu, lasciando il mantello, darai anche la tunica, tu predicherai efficacemente l'Evangelo. quando tu ti sforzerai di benedire, non maledire, di pregare per chi ti oltraggia, tu predicherai il meraviglioso Vangelo di Cristo, perché questo è quello che Cristo ha fatto per ciascuno di noi. Lui è morto per noi peccatori. Lui ha amato noi che abbiamo bestemmiato a Lui, l'abbiamo rinnegato ed eravamo ribelli alla Sua voce e alle Sue parole. Gesù sta chiamando la nostra Chiesa, noi, a vivere delle relazioni sane. Matrimoni sani, amicizie sane, collaborazioni sane. E sapete, un titolo che ho dato a questo messaggio è Guancia, bocca, mani. Tu porgi l'altra guancia, scegli di dire parole che portano vita all'altro e usi le tue mani per quella che è una regola d'oro. Gesù dà una regola d'oro. Con questo voglio concludere, ascoltatemi bene. Quella che Gesù propone è la regola per eccellenza. Farà bene a te, farà bene al tuo gruppo, farà bene alla Chiesa, farà bene alle relazioni, ai tuoi matrimoni, farà bene in ogni cosa e trionferai in ogni situazione conflittuale. La regola d'oro è la seguente. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi a loro. Non aspetti che l'altro fa del bene a te, ma sei tu che ti proponi di fare del bene all'altro, a prescindere. Quando tu afferri il valore di questa regola, cominci a vivere in una logica completamente diversa, divina, gloriosa, nella meccanica di Cristo, nell'ingranaggio di Cristo, e al posto di essere parte di quella spirale di morte, tu inneschi un vortice e una spirale di vita. Perché esci dall'egoismo, esci dall'egocentrismo, esci da quello che tu hai diritto, quello che tu vuoi, quello che gli altri dovrebbero fare a te, quello che tu ti meriti, e incomincia a guardare l'altro per il suo bisogno e comincia a fare all'altro quello che vorrei che sia fatto a te. Ed è qui che il miracolo avviene. Se tu questa settimana scegli di andare nel tuo piccolo gruppo e al posto di chiederti e sbuffare, no, e dire ok, che cosa mi darà questa volta il capogruppo, vai lì preparato per dire: io voglio fare agli altri quello che gli altri, quello che vorrei che gli altri facessero a me. E che so, forse tu vuoi che l'altro, non lo so, penso a me, no? Io vorrei che l'altro portasse una buona focaccia, perché funziona sempre meglio quando c'è una focaccia di mezzo nel gruppo familiare, no? L'abbiamo sentito anche da Clarissa, funziona anche come sostitutivo alla torta se stai facendo digiuno da dolci. Allora falla tu la focaccia, porta tu la focaccia, fai tu agli altri quello che vorresti che gli altri facciano a te. Non aspettare, non esci fuori da quello che è il senso di diritto. Sapete Gesù che cosa fa con queste parole? Con questo concludo. Concludo veramente, lo prometto. Quello che Gesù sta facendo con queste parole è dire: esci dal meccanismo nel quale tu ti senti in diritto di avere ogni cosa. Gesù dice: tu non hai il diritto di non essere ferito, ma hai il dovere di non ricambiare la ferita avuta altra ferita. Tu non hai il diritto che nessuno ti rubi qualcosa, ma hai il dovere di mostrare agli altri che sei così generoso e non attaccato ai beni terreni, che sei disposto a rinunciare a molto altro. Tu non hai il diritto che gli altri facciano questo e quest'altro e che mi servano e che la Chiesa risponda ai miei bisogni in questa maniera, in quest'altra maniera. Gesù dice: tu non hai il diritto di questo, ma hai il dovere, il mio comandamento, di fare questo agli altri. Quando funzioni in questa logica, cominci a vivere una vita straordinaria. E sapete una cosa? Una vita straordinaria non la puoi vivere nelle tue forze, è Cristo che te la può dare. Per il tuo matrimonio, per la Chiesa, per le amicizie, nelle relazioni, è Lui che vuole entrare e vuole portare guarigione. Vogliamo alzarci in piedi? Io questa sera sento fortemente di pregare, in modo particolare per i matrimoni in mezzo a noi. Oh, che tu possa fare tue queste parole e vincere per il tuo matrimonio. Che tu non possa ricambiare male per male, parola negativa con altra parola negativa, ma possa bloccare e fermare nel nome di Cristo Gesù la spirale di morte e il distruttore che vuole creare rottura, divorzio, separazione. Questo non è da Dio, Dio vuole riparare il tuo matrimonio. Amen. E io voglio pregare per tutti i matrimoni che sono qui in mezzo a noi. Se sei con tuo marito, con tua moglie, posso chiederti di prenderla per mano. E voglio pregare per te. Se non è qui tuo marito, tua moglie, allora simbolicamente stringi il pugno, immaginalo al tuo fianco e voglio pregare per te. Che tu possa innescare una spirale che porta benedizione in famiglia. Padre, io prego che le tue parole possano prendere vita. Noi intercediamo nel nome di Cristo Gesù per le coppie qui presenti e per ogni matrimonio di ogni persona che mi sta ascoltando in questo momento. Io prego, noi preghiamo, Cristo Gesù, che tu possa intervenire e far prevalere il vero amore, non quello stupido, quello che ci presenta Hollywood, quello che ci presenta la società. Padre, noi non vogliamo quell'amore, noi non vogliamo quell'emozione, noi vogliamo l'amore concreto, vero, quello che tu hai avuto nei nostri confronti. E io prego che ogni marito possa amare sua moglie come tu ami la Chiesa, Signore Gesù. Io prego che legami stretti di amore, di vincoli che reggono davanti ad ogni tempesta si possono creare alla luce della tua parola. Prego per mogli che siano sottomesse ai mariti come capi della Chiesa, capi del corpo, capi della coppia, come tu sei capo della Chiesa e capo del corpo, Gesù. Io prego per il tuo intervento in ogni coppia in mezzo a noi e prego che tu possa riparare anche dove c'è rottura, dove ci sono ferite, che tu possa guarire nel nome potente di Cristo Gesù. Amen. Voglio pregare ancora per chi questa sera, colpito dalle parole di Gesù, dice: io a partire da questa sera voglio vivere 100% Gesù. Io voglio vivere radicalmente le mie relazioni, voglio essere un portatore di vita e non di morte. Voglio avere le mani lavate, non inquinate, sporche. Io voglio essere uno che spezza l'innesco e la spirale di morte e che esce dall'ingranaggio di quel meccanismo che porta dolore, aggiunge dolore a dolore, sofferenza a sofferenza, maledizione a maledizione. Se tu sei una di queste persone, allora ti chiedo di alzare le tue mani in arresa e voglio pregare per te. Padre, insieme noi preghiamo. E io per primo prego che davvero tu possa toccare il mio cuore, i nostri cuori, tutti. E che i nostri cuori siano guariti e trasformati dall'Evangelo tuo, dalle parole tue. Noi vogliamo essere uomini saggi che costruiscono la casa sulla roccia e noi vogliamo avere relazioni sane. Noi vogliamo uscire da questo meccanismo diabolico di ricambiare al male avuto. Noi vogliamo uscire da questo meccanismo diabolico di arrabbiarci, di covare rancore, di avere ira nel nostro cuore. Padre, noi vogliamo uscire da questo meccanismo diabolico che ci porta ad essere concentrati su noi stessi. Noi vogliamo benedire il nostro prossimo, amare i nostri nemici, fare del bene a quelli che ci maledicono, pregare per loro e benedirli. Padre, noi vogliamo essere la differenza in questa società. Noi vogliamo distinguerci e sappiamo che lo possiamo fare straordinariamente potenziati da te in persona. Quindi io chiedo, Spirito Santo, che tu possa scendere sulla tua chiesa, su ogni credente qui arreso, su ogni credente che in questo momento sta rendendo il proprio cuore a te. E voglio pregarti, Spirito Santo, che tu possa ricordarci queste parole, le istruzioni di Cristo, ogni qualvolta ci ritroveremo davanti a una relazione conflittuale, a una situazione che ci porta e ci trascina a vivere quel meccanismo diabolico al quale noi vogliamo dire no e basta questa sera, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Amen.